fosse pubblico, se il mercato fosse solido, se il governo fosse tecnico, se bastasse qualche monito ad illuminare il buio che c'è qua. Grazie.